Per comprendere il significato del termine biblico spirito, articoleremo la nostra ricerca in tre direzioni. 1. Come trovare il significato di una parola e la sua applicazione. 2. Come e perché il significato di questa parola oggi non corrisponde più a quello originale. 3. Come è il suo contenuto semantico, ovvero qual è il suo vero significato. 1. Come trovare il significantico testamento di una parola e la sua applicazione. Nessuno di noi ha il diritto di spiegare il significato di una parola secondo i suoi punti di vista o secondo la sua cultura, anche perché ogni disciplina ha i suoi termini propri. Se studio medicina, nel corso del mio apprendimento incapperò in termini adatti a tale disciplina, ad esempio, otorinolaringoiatra. E se studio architettura troverò altrettanti termini adeguati. Così, eppure, nell'ambito religioso, vi troverò termini appropriati a questa materia. Uno dei termini, e forse il termine per eccellenza in merito alla religione, è senza dubbio la parola Dio, senza il quale non vi è religione, ma sola filosofia, come nel caso del buddismo. Perciò, se voglio sapere cose intorno a Dio, per forza di cose devo avvalermi di testi base che spieghino tale termine, come del resto si fa a scuola, quando si studia, meno, e uno dei testi base indispensabili è certamente un buon dizionario o vocabolario. Però ci sono vari vocabolari, come ad esempio il vocabolario enciclopedico, che parla di tutto. Per cui è più opportuno avvalersi di un dizionario specifico, come per esempio un dizionario biblico che tratta argomenti e parole inerenti alla Bibbia, il libro, che per sua natura è specificatamente religioso. Così, se voglio sapere qualcosa intorno al Tempio di Gerusalemme, troverò utili riferimenti. Se voglio altre notizie sui sacerdoti ebrei, sulle feste ebraiche o su Gesù, vi troverò ciò che mi occorre. Prendo perciò uno dei vari dizionari che posseggo, il dizionario biblico GBU, cioè un dizionario edito da i gruppi biblici universitari, un movimento religioso internazionale che opera nelle università con lo scopo di suscitare e approfondire la conoscenza della fede cristiana. Sfoglio il dizionario e a pagina 443-444 trovo ciò che mi interessa. Dio. La sua natura. Avido di sapere e di essere informato da credenti universitari, inizio a leggere. Per QU a Nuovo Testamento riguarda L a Suan Antico Testamento URA. Dio è puro spirito, ovvero energia in Nuovo Testamento e Lige Nuovo Testamento. Dato che ho un'opinione diversa su Dio, ricevo un pugno nello stomaco e, poiché sono cosciente dei miei limiti di comprensione, rileggo di nuovo. Per QU a Nuovo Testamento riguarda L a Suan Antico Testamento URA, Dio è puro. Spirito, ovvero energia in Nuovo Testamento e Lige Nuovo Testamento e... Ho capito bene, se le parole hanno un loro significato, se i termini usati non sono semplici dettagli pittorici, per dare vivacità all'immagine di Dio, ma privi di significato dottrinale, comprendo che il dizionario sta definendo la natura di Dio quale incorporea, invisibile, senza sostanza, senza caratteri fisici. E per questo, non confacente a essere oggetto di percezione sensibile. Una visione di Dio completamente diversa da quella che mi è sempre stata tramandata, secondo la quale nel Dio dei cristiani sussistono tre persone uguali come natura, ma distinte come relazione. Rimango un poco perplesso, anche perché per poter sostenere una certa opinione per forza di cose, gli autori del testo in questione non l'hanno di certo inventata, e poiché essa è scritta su di un dizionario letto da milioni di persone, e che per sua natura si presenta autorevole in materia, mi trovo indotto a ricercarne una ragione. Ragione, che trovo subito proseguendo nella lettura. Cristo fece la seguente rivelazione alla donna samaritana. A proposito di Dio oggetto di culto di Israele, Dio è spirito. E quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità. Gio versetto 4.24. Quindi, se il dizionario, redatto da universitari cristiani, e curato nell'edizione italiana da Rinaldo Di Prose, direttore degli studi Istituto Biblico Evangelico Italiano, Roma, afferma che Dio è puro spirito, ovvero energia intelligente. Lo fa sulla base della testimonianza di Gesù, quando ha detto che Dio è spirito. Da questa parola spirito, i curatori del dizionario hanno tratto le loro conclusioni. Una cosa di per sé abbastanza normale, perché tutti facciamo la stessa cosa. Con un particolare, però. Se abbiamo compreso in modo giusto la parola, i ragionamenti conseguenti possono essere corretti e coerenti al significato del termine in questione. Se invece si comprende o si interpreta in modo sbagliato, si arriva a conclusioni assurde. Facciamo un esempio. Quando leggo nel libro degli Atti che nella città di Antiochia si trovavano dei dottori, Atti 13.1, se per dottore intendo un laureato in medicina, tutti i ragionamenti successivi, anche se fossero i più rigorosi e i più belli mai pronunciati, alla fine risulterebbero sbagliati. Mentre se nel vocabolo dottore vedo colui che ha ricevuto un dono da Cristo per poter esprimere rettamente il pensiero di Dio, anche se io balbetterò alcune verità, esse saranno sempre in armonia con la volontà di Dio. Perciò il punto è non tanto quanto il dizionario sostiene, ma se l'autore della ricerca del vocabolo in questione ne ha capito il reale significato. Se non lo ha capito, succede come a chi si allaccia un gilet partendo già dalla prima asola in modo sbagliato. Tutti gli altri bottoni saranno messi nelle asole sbagliate. Non è sbagliato l'ultimo bottone, ma tutti, soprattutto il primo. Il risultantico testamento di una parola sbagliantico testamento ha. L'opinione del dizionario nominato in precedenza potrebbe anche passare inosservata, ma da ciò che evince dalla lettura di altri testi di teologia si comprende che l'interpretazione dell'affermazione di Gesù, Dio è spirito, costituisce la base per ogni altro ragionamento in merito a Dio. Quando si parla di Dio, la mente del cristiano è sempre condizionata dal presupposto che egli sia puro spirito, cioè energia intelligente. Una dimostrazione indiscutibile della concretezza di tale condizionamento si trova in un libretto divulgativo per i ragazzi, proposto proprio da una organizzazione operante tra i più giovani, il cui titolo è «Sai che?», edito dall'UEB, uno stampato del quale recentemente sono state pubblicate migliaia di copie, tradotte anche in altre lingue, per far conoscere a tutti i bambini del mondo le prime e fondamentali verità del cristianesimo. Dopo un disegno rappresentante l'infinito, il libretto inizia con una domanda: ti sei mai chiesto chi è veramente l'unico vero Dio? La domanda è più che saggia, perché anche oggi tutti predicano che il loro Dio sia quello e solo vero. I cristiani, non essendo da meno, perciò ritengono importante per prima cosa presentare il loro Dio. La risposta che troviamo scritta è: l'unico vero Dio è spirito. Non ha un corpo come te e come me. Dunque si trova opportuno anche per i ragazzi iniziare a spiegare chi sia Dio, definendo che è spirito e che, in quanto tale, non ha e non può avere un corpo. Il termine spirito in questo caso è stato messo e considerato come vocabolo esprimente un'idea opposta alla materia. Vedi anche note sulla dottrina di Dio. Samuele Negri, pag. 16. Un simile accostamento mi porta a ricordare ciò che trovo scritto in una rivista teologica dal titolo Prospettive su Dio, nella quale l'autore scrive, tutto preoccupato, lo studio degli attributi di Dio ci aiuta ad evitare assimilazioni troppo facili. Da sempre la tentazione dell'uomo è quella di pensare a Dio nei propri termini. Le proprie concezioni e le proprie esperienze sono considerate dei paradigmi che, più o meno purificate, servono a descrivere Dio. Studi di teologia, numero 20, pagina 207. Anche se questa verità viene sostenuta da tutti gli studiosi esperti in materia, è pur vero che, alla fine, ognuno rimane vittima dei propri schemi mentali, e lo dimostra il fatto che le molte correnti teologiche si contraddicono. Ora, è giunto il momento di spiegare come possano esistere queste correnti teologiche contraddittorie, anche se chi studia e insegna teologia non è sempre motivato da partitismi. Questo Chiarirà anche perché si trova scritto nel dizionario che, per quanto riguarda la sua natura, Dio è puro spirito, ovvero energia intelligente. 2. Come e perché il significantico testamento di questa parola oggi non è più quello originale. Per spiegare come e perché il significato di questa parola oggi non sia più quello originale, mi avvalgo di un docente di storia religiosa dell'Oriente cristiano ed antropologia delle religioni. Perché per forza di cose, quando si parla del passato, si è costretti a ripercorrere certe tappe storiche. E non è saggio, meno per chi non è all'altezza della situazione, meno fare ipotesi. Il docente di storia si chiama Giancarlo Rinaldi, che ha scritto un bellissimo e valido libro dal titolo Cristianesimi nell'antichità, edito sempre dalla casa editrice dei GBU. A pagina 113 Rinaldi scrive: il cristianesimo delle origini pensa e si esprime nelle categorie mentali del giudaismo, del quale costituisce una ramificazione, un dato di fatto riconosciuto da tutti gli studiosi, al punto da riconoscere la religione cristiana come l'unica fede che trae le proprie origini in un'altra religione, quella giudaica. Ma, come in tutte le cose, esiste anche un'altra verità, verità riconosciuta sia da Rinaldi sia da tutti gli studiosi del pensiero cristiano. Da notare che Rinaldi ha messo in evidenza che era il cristianesimo delle origini a pensare ed esprimersi in linea con le categorie mentali del giudaismo, perché in seguito i primi cristiani abbandonarono la mentalità e l'eredità ebraica. Ed è per questo che, successivamente, il docente di storia scrive: per comprendere la religione cristiana, bisogna dunque conoscere i suoi due principali antecedenti, il giudaismo e la cultura ellenistico-romana. 57. Per quale motivo? Perché già all'epoca di Cristo il giudaismo aveva subito, in vario grado, profondi processi di ellenizzazione. 58. Cioè aveva introdotto elementi greci nel pensiero ebraico. Quali sono questi elementi greci? Sono vari, ma uno dei più significativi è stato l'eredità del pensiero filosofico di Platone. 66. Di questo Rinaldi scrive: il platonismo ha esercitato una profonda forza d'attrazione sia sul giudaismo ellenistico, sia, e ancor di più, sui pensatori cristiani, come ad esempio Origene, ma anche su quei padri della Chiesa che dal secolo IV in poi si impegnarono a tradurre il messaggio cristiano nella terminologia e nelle categorie del pensiero platonico. Possiamo affermare senza tema di smentita che tutta la religiosità delle tarde antichità, tanto pagana quanto cristiana, appare intrisa o almeno influenzata da categorie di pensiero platoniche. Punto caratteristica fondamentale del platonismo è il dualismo tanto antropologico quanto cosmologico. L'uomo risulta composto da un elemento materiale e perituro, il corpo, e da uno spirituale e immortale, l'anima. 67. Per non dilungarci su questa grandissima verità del pensiero greco, è sufficiente ricordare che questo dualismo si è poi trascinato nel corso dei secoli in ogni settore del pensiero umano, ma soprattutto in quello religioso, perché il mortale e l'immortale sono termini e pensieri propriamente adatti alla religione. In definitiva, quasi la totalità dei padri della Chiesa ritenevano il corpo un peso da portare e, il più delle volte, solo oggetto di peccato, mentre l'anima era la parte più nobile dell'uomo. Questo dualismo ha portato in seguito i filosofi a dividere il mondo in due categorie, il materiale e lo spirituale. Di questa eredità facciamo uso ancora oggi a scuola, quando ci viene insegnato che il corpo è materiale, mentre l'anima è spirituale. Di conseguenza, il libro, la pianta, i fiori e lo stesso corpo umano sono oggetti materiali, in quanto costituiti da materia, mentre l'amore, l'amicizia, la pazienza, moti appartenenti all'anima, sono realtà spirituali. Con l'espressione spirituali noi intendiamo opposti alla materia, non costituiti da essa, e questo è il primo errore di fondo dei filosofi. Tracciare una netta distinzione fra materiale e spirituale ci ha allontanati dall'originario pensiero ebraico, il quale ha sempre ritenuto l'amore, la pazienza e le altre virtù spirituali un tutt'uno con quelle definite materiali. Infatti, l'amore per essere tale deve esprimersi. Nella pratica, la pazienza per essere tale deve manifestarsi praticamente, ed è difficile, se non impossibile, poter dire che uno possiede l'amore, ritenuto spirituale e incorporeo, se non lo manifesta corporalmente. Come la fede. Uno dei madornali errori è ritenere la fede una virtù spirituale, punto e basta, ma quando Giacomo nella sua lettera sostiene che la fede senza le opere è morta, vuol dire che la fede per essere tale deve avere una sua materialità, cioè le opere. Altrimenti non è fede. È probabile che sia questo dualismo insito nella nostra mente a permetterci di essere assurdi. Diciamo di amare, quando è tutto il contrario. Diciamo di possedere la fede anche quando non facciamo nulla di concreto per Dio. Non a caso, l'autore della lettera agli Ebrei mette in evidenza che, per fede, Abele offrì degli agnelli, Noè costruì un'arca, Abramo soggiornò in terra promessa, Isacco benedisse Giacobbe, Rab accolse le spie. L'altro errore, a causa del quale si afferma che, per quanto riguarda la sua natura, Dio è puro spirito, ovvero energia intelligente, è dovuto al fatto che per noi lo spirituale è posto in antitesi al materiale. Mentre, nel pensiero ebraico, non vi accenno a una tale antinomia. Nel Nuovo Testamento si parla di carne, non di materia. La materia e la carne non indicano la stessa cosa. Mentre la materia è la sostanza di una cosa o di un essere, con il termine carne e il suo aggettivo derivato, gli ebrei della prima chiesa intendevano MR 3:20 indicare il genere umano, RO 2:28 nel senso di carne del corpo, RO 1:3 indicare la discendenza o parentela, RO 6:19 riferimento alla natura umana, RO 7:5 riferirsi alla natura umana non rigenerata. Quindi, per gli ebrei della Chiesa nascente, in antitesi erano i frutti dello spirito di un uomo rigenerato e le opere dell'anima, chiamate a... Questo modo di ragionare è ben messo in evidenza dall'Apostolo Paolo, che, come dobbiamo sempre ricordare, specialmente in questa occasione, era ebreo di nascita, quindi israelita di cultura, che presentava il messaggio del Vangelo ai non ebrei, riuscendo a non perderne gli elementi ebraici di fondo. Un brano significativo lo troviamo nella prima lettera ai Corinzi. Fratelli, io non ho potuto, Paolo, parlarvi come a spirituali, ma ho dovuto parlarvi come a carnali, come a bambini in Cristo. Vi ho nutriti di latte, non di cibo solido, perché non eravate capaci di sopportarlo, anzi non lo siete neppure adesso perché siete ancora carnali. Infatti, dato che ci sono tra di voi gelosie e contese, non siete forse carnali e non vi comportate come qualsiasi uomo? 1 Corinzi 3:13. In questo brano l'Apostolo Paolo usa i termini spirituale e carnale, dove il termine carnale sta, come si è chiarito sopra, in contrapposizione al materiale, e, arrivato il momento di usare un dizionario dei concetti biblici del Nuovo Testamento, per comprendere il termine spirito. Edizioni Deoniane Bologna, 1976 pag. 1784. In contrapposizione a spirituale. Non ha usato termine spirituale. In greco, la parola spirito corrisponde a pneuma. Pneuma, formato con la radice originaria, pneu e il suffisso ma, indica, grosso modo, l'effetto del movimento dell'aria, e, cioè, l'aria mossa come una sostanza particolare, con un riferimento implicito all'energia, alla potenza, che agisce in questo movimento. Quindi, pneuma significa prima di tutto vento, respiro. Pneuma è noto fin dall'epoca dei presocratici. Con l'andar del tempo ha coagulato un po' tutti i significati degli altri vocaboli della medesima radice e, nell'epoca ellenistica, è diventato un termine di una certa importanza, conservando però il significato indicante un qualcosa di materiale. Questa definizione ci porta a comprendere che la natura di Dio sia eterna, autosufficiente, ma anche che essa sia in relazione con la materia. E la materia può essere spirituale. L'aggettivo pneumaticos, spirituale, che ha come radice pneuma, indica l'appartenenza alla sfera celeste, non è nel senso di incorporeo, ma in contrapposizione a ciò che è corrotto. Il corpo spirituale che i credenti riceveranno al ritorno di Cristo non sarà immateriale. Quando Gesù risuscitò, aveva un corpo spirituale, ma con il quale poteva mangiare e mediante il quale poteva essere toccato. Leggendo che Dio è spirito, dove il greco legge pneuma o theos, spirito e Dio locuzione, sottolineante che è lo spirito, ad essere Dio e non Dio, ad essere spirito, dobbiamo intendere che la sua natura è spirituale o celeste, in contrapposizione non tanto al materiale, ma a ciò che è corrotto dal peccato. Che lo spirituale non sia in contrapposizione alla corporeità è poi dimostrato anche dalla discesa dello Spirito Santo su Gesù al momento del suo battesimo. Nel Vangelo omonimo leggiamo che Giovanni vide lo Spirito scendere su Gesù nello stesso modo in cui discende una colomba. Giovanni 1,32, perché lo Spirito aveva una forma corporea, forse è difficile trovare una definizione che come in greco serva a realizzare mentalmente l'espressione corporea forma. Nella lingua originale, infatti, Giovanni rende l'idea di essere stato spettatore proprio della forma visibile di tutto l'essere della persona dello Spirito Santo. Rivolgiamo ancora la nostra attenzione alla parola Spirito. In vari testi divulgativi che spiegano gli attributi di Dio, egli è presentato come Spirito, nel senso che egli è in opposizione alla materia, la quale è limitata e temporanea. E ancora leggiamo che Dio è spirito nel senso che è incorporeo, invisibile, senza sostanza, senza caratteri fisici, per questo non è oggetto di percezione sensibile. Questa è l'opinione dei più. Ma questa conclusione contrasta fortemente con ciò che leggiamo nell'Antico Testamento. Il Dio dell'Antico Testamento ha una corporeità propria. Infatti, ha camminato nel giardino dell'Eden, ha mangiato il cibo che Abramo gli ha offerto. Ha lottato con Giacobbe, ha camminato davanti al popolo di Israele, è stato visto da Mosè, Aaronne, Nadab, Abihu e 70 degli anziani di Israele, Esodo 24.9.1.1. Tutto questo non può essere considerato in senso simbolico, perché renderebbe il testo sacro senza significato. L'unica ragione valida per ritenere Dio senza sostanza è presupporre a priori che egli non possa essere altro che tale. Ma un'opinione su Dio, scaturita unicamente dalla considerazione letterale della scrittura, ci porta a conclusioni ben diverse. La nostra opinione di Dio deve formarsi, non tanto secondo ciò che ci piace, quanto in base alla rivelazione che lui ha data di se stesso. Solo così gli uomini parleranno di Dio in verità e senza cadere nel terrore di parlare di tutt'altro. La Scrittura, affermando che Dio è Spirito, non intende sostenere che la natura di Dio, cioè della Trinità, sia immateriale. Soprattutto per quanto riguarda Yahweh, il Dio dell'Antico Testamento, il quale si presenta con una fisicità tale da lottare corpo a corpo con Giacobbe e da essere scambiato per un messaggero di Dio perché aveva le sembianze d'uomo, Giudici 13:6. Che tutti possiamo usare il termine biblico spirito nel suo vero significato. Aprile 2011, Ellero.